Questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Scatta la rivolta a Ferguson dopo la decisione del giudice di non incriminare la gente che uccise un ragazzo di colore. Sono una decina gli edifici dati alle fiamme. Gli ideali dell'Europa, stanca e invecchiata, soffocati da tecnicismi burocratici, dice il Papa in visita a Strasburgo. E ancora, il Mediterraneo non sia un cimitero. Legge di stabilità, il canone Rai in bolletta da gennaio, conferma il sottosegretario Giacomelli a Radio 24. Arriva anche un'ipotesi di sanatoria per le slot illegali. L'OCSE parla di primi passi positivi per le riforme italiane, ma taglia le stime di crescita. Per Moody's il cammino di risanamento è incompleto. In Libia sventolano bandiere dell'ISIS a Tripoli, ultimatum dell'esercito alle milizie, andatevene o vi annienteremo. Il dopo regionali complica il cammino delle riforme, Forza Italia guarda la Lega e il patto del Nazareno potrebbe saltare, battaglia nel partito di Berlusconi. Un best of con qualche inedito per Tiziano Ferro, si chiama La scatola della mia memoria, lo sognavo da piccolo, ci racconta, se farò il cantante farò una raccolta. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e l'email effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque gli aggiornamenti dagli Stati Uniti, dove dopo la sentenza sulla gente che a St. Louis sparò e uccise un ragazzo di colore si sono scatenate violenze e proteste. Gli aggiornamenti. 12 edifici e decine di auto e negozi in fiamme, spari contro la polizia nella città americana di Ferguson, si è scatenata nella notte una guerriglia urbana con incendi e manifestazioni e cori. Nessuna giustizia, nessuna pace, mani in alto, non sparate, ripetevano centinaia di persone che si sono riversate in strada subito dopo che il gran giurì nella contea di St. Louis, nel Missouri, ha annunciato che Darren Wilson, l'agente che aveva sparato e ucciso il 18enne disarmato Michael Brown il 9 agosto scorso a Ferguson, non sarà processato. Perché non ci sono prove sufficienti per incriminarlo, mandarlo sotto processo. La protesta è scoppiata anche in molte città americane, inclusa New York. Il ponte di Brooklyn è stato chiuso al traffico dai manifestanti scesi in strada. A Los Angeles oltre 300 manifestanti e proiettili di gomma. Il presidente Obama pochi minuti dopo il verdetto è apparso in TV. Prima di tutto siamo una nazione fondata sul ruolo della legge e quindi è necessario rispettare la sentenza del gran giurì, un appello alla calma e alla non violenza. Finora però almeno 30 persone sono già state arrestate a Ferguson, un agente ferito, l'FBI è presente con una sua task force di 100 funzionari, la Guardia Nazionale e migliaia di poliziotti sono schierati in tenuta antisommossa, ma nessuna vittima, secondo il capo della polizia della contea di St. Louis. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Queste le cronache da Ferguson sulle quali torneremo in America 24 a cura come sempre di Mario Platero alle 13:45. Siamo alla visita del Papa a Strasburgo. Un'Europa stanca e invecchiata. Con queste parole Papa Francesco ha aperto poco fa il suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo, un discorso che ha toccato il tema della dignità, del lavoro, della disparità tra chi ha troppo e chi non ha nulla. I grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici. A ciò si associano alcuni stili di vita un po' egoisti, caratterizzati da un'opulenza ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Vi esorto a lavorare perché l'Europa riscopra la sua buona anima, concluso Papa Francesco, raccogliendo applausi e una standing ovation. Durante il suo discorso anche un riferimento alle radici religiose europee. Sono convinto che un'Europa che sia in grado di fare tesoro delle proprie radici religiose, sapendone cogliere la ricchezza e la potenzialità, possa essere anche più facilmente immune ai tanti estremismi che dilagano nel mondo odierno, anche per il grande vuoto ideale a cui assistiamo nel cosiddetto Occidente. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si sta componendo in vista dell'esame parlamentare la legge di stabilità. Tra gli emendamenti presentati dall'esecutivo potrebbe arrivarne uno per finanziare la cura della ludopatia, ma i soldi arriverebbero, riferisce il Secolo XIX, da una sanatoria sulle slot attualmente fuori legge. Di questo parleremo tra poco con il sottosegretario all'economia. Intanto il ministro dei beni culturali Franceschini interviene sull'ipotesi di abbassamento dell'IVA sugli ebook al 4% contro il 22% attuale, sul quale è stato presentato un emendamento del governo. Non vedo i termini per una procedura di infrazione da parte di Bruxelles, ha detto Franceschini. Mentre il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli conferma, intervenuto a 24 mattino da Alessandro Milan, l'ipotesi del canone Rai in bolletta. In bolletta, diciamo, legato alla bolletta dà un'idea di legato al consumo, e non è così. Proprio in bolletta. Quando accadrà questo? Diciamo, noi contiamo, stiamo lavorando in questi giorni, contiamo di presentare già in Senato un emendamento alla legge di stabilità per inserire questa norma. Ecco, quindi lo strumento individuato è questo, la legge di stabilità, un emendamento in modo che venga approvato e sia efficace già da gennaio dell'anno prossimo, tra un mese. Quanto pagheremo di canone nel gennaio dell'anno prossimo? secondo i vostri piani, ovviamente, no? Perché... Diciamo, qui ci sono varie opzioni, pagheremo certamente meno. Il punto vero è quello che lei ha detto presentando questa conversazione, c'è un'evasione per cui siamo tra i primi in Europa, che è attorno ai 600 milioni, per un canone che è oggettivamente tra i più bassi in Europa. Questa situazione non è più tollerabile. Con questo strumento noi consideriamo di recuperare in modo pressoché totale l'evasione. Nel frattempo è in arrivo il via libera parlamentare al Jobs Act, e sempre con i problemi che vengono dalla sinistra del Partito Democratico. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. È così, superato lo scoglio dell'ultimo emendamento al testo, l'Aula della Camera è impegnata con ben 109 ordini del giorno presentati alla delega. Un esame questo che non dovrebbe rallentare più di tanto i lavori della Camera, che potrebbe a questo punto approvare il Jobs Act entro questa sera e senza ricorrere alla fiducia. Ieri qualche momento di tensione con due deputati del Movimento 5 Stelle espulsi perché fotografavano e non consentivano al Presidente della Commissione Lavoro Damiano di intervenire, ma l'esame del provvedimento è andato comunque avanti. Regge dunque l'intesa trovata nella maggioranza tra PD e Nuovo Centrodestra e all'interno dello stesso Partito Democratico, nonostante la fronda annunciata da una larga fetta di deputati. Sarebbero infatti 30 gli esponenti del PD intenzionati a dire no al provvedimento, civati tra tutti, in dubbio fino all'ultimo cuperlo. Voto sì per disciplina, conferma invece Bersani. L'ultima versione del testo, lo ricordiamo, riscrive l'articolo 18 per i neoassunti con contratto a tutele crescenti. Si fissa il solo indennizzo economico allora certo e crescente con l'anzianità di servizio per i licenziamenti economici, mentre il reintegro resta per i licenziamenti discriminatori e viene limitato a specifiche fattispecie per i disciplinari. L'obiettivo del governo a questo punto è approvare il Jobs Act in seconda lettura al Senato entro il 9 dicembre per varare già alcuni dei decreti delegati entro fine anno. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Intanto arrivano giudizi sia dall'OCSE che da Moody's che non sono particolarmente positivi. L'area euro continua a crescere molto lentamente, ciò non va bene per l'economia mondiale. Dobbiamo far crescere più rapidamente l'Europa. Non usa mezzi termini Catherine Mann, capo economista dell'OCSE, presentando l'Economic Outlook autunnale. A preoccupare soprattutto il rischio di una stagnazione persistente. Per questo bisogna agire con ogni mezzo, attivando tutte le misure di politica fiscale, monetaria e strutturale necessarie. In tal senso, spiega l'organizzazione, il rinvio della stretta sui conti proposto da Italia e Francia appare appropriato, a patto che il governo porti avanti con determinazione il suo programma di riforme. Diversa la posizione di Moody's. I paesi periferici hanno fatto molto, ma i piani di consolidamento restano incompleti, specialmente in Italia, dice l'agenzia di rating. In ogni caso, dopo il meno 0,4% di quest'anno, il PIL italiano tornerà a salire, stima l'OCSE, con un più 0,2% nel 2015 e un più 1 nel 2016. La disoccupazione è attesa in calo, ma sempre sopra il 12%, mentre il debito pubblico continuerà a crescere. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dal lato della politica economica, mentre invece la politica vera e propria si compone anche ancora delle riflessioni post-voto in Emilia-Romagna e in Calabria, riflessioni che investono tanto il Partito Democratico quanto soprattutto il centrodestra e Forza Italia. Tra l'altro di tutto questo parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno con il neo presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini. Comunque queste riflessioni, queste discussioni rischiano di avere un impatto anche sugli accordi per la legge elettorale e le riforme. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Uno scossone, se non un vero e proprio terremoto, quello che le elezioni regionali hanno provocato nel partito di Berlusconi. Alle 15 è stato convocato un ufficio di presidenza a Palazzo Grazioli per fare il punto, per capire quali potrebbero essere le soluzioni per uscire dall'angolo, se un accordo con la Lega, uscita notevolmente rafforzata da questa tornata, se un abbandono del patto del Nazareno che molti esponenti azzurri a questo punto chiedono di rivedere, se non di tradire. Un ufficio di presidenza che, come dicevo, è fissato alle 15, ma Raffaele Fitto ha chiesto di spostare ad altra data e ad altro orario perché molti europarlamentari come lui sono oggi impegnati con la visita del Papa a Strasburgo. E tra l'altro è proprio con l'ex governatore il confronto più atteso, perché proprio da lui, come sappiamo, è partito ieri l'affondo più duro. Fitto ha parlato di risultato drammatico, di clamorosi errori, di appiattimento assoluto sulla linea del governo, chiedendo di azzerare nomine e incarichi, dunque di voltare pagine, parole che si racconta avrebbero fatto irritare non poco Berlusconi, il quale è rimasto finora silente e potrebbe parlare questo pomeriggio alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa. Quanto al PD, Renzi ostenta fiducia: se il patto del Nazareno dovesse cedere si andrà avanti lo stesso. La minoranza interna però invita a non sottovalutare l'astensionismo e i suoi malumori potrebbero scatenarsi sulla legge elettorale oltre che sul job set. Ma intanto per il 1° dicembre Renzi ha indetto una nuova direzione per ricompattare il partito. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E mentre in Italia si discute di tutto questo, la Libia è sempre più nel caos. A quanto pare sono apparse anche delle bandiere dell'ISIS a Tripoli, anche l'ambasciata di Malta è stata sostanzialmente sgomberata, rimangono solamente due rappresentanze diplomatiche a Tripoli, sono quella ungherese e quella italiana. L'esercito libico ha mandato un messaggio alle milizie: lasciate Tripoli oppure vi annienteremo. Per un commento sulla situazione ci colleghiamo con Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Come può andare a finire, Alberto, anche se in questo caso naturalmente le previsioni sono sempre decisamente difficili? Ma direi che quando qui ci si trastulla con l'ultimo libro di Bruno Vespa, forse sarebbe opportuno che il governo indicesse una riunione di emergenza sia con il corpo diplomatico che con i servizi che con la difesa, per cercare di capire che cosa sta accadendo davvero nella ex, o direi a questo punto ex capitale libica, cioè Tripoli, paese diviso in due. A Bengasi c'è un governo che è uscito dalle elezioni ritenuto legittimo ma in realtà con uno scarso consenso, e si sta lottando sul campo col generale Haftar contro gli islamici. A Tripoli la situazione era sotto il controllo delle milizie dei Fratelli Musulmani e di alcune milizie a loro alleate, quelle di Alba. Adesso la comparsa di queste bandiere dell'ISIS certamente fa preoccupare. La bandiera nera del califfato potrebbe anche essere una provocazione. Adesso bisogna guardare bene che cosa succede sul campo, però è chiaro, è evidente a tutti che l'Italia deve prendere delle misure importanti, perché nella Tripolitania ci sono la gran parte degli interessi economici dell'Italia, i terminali dell'ENI e tutti gli interessi energetici ed economici del paese in quella, sulla sponda sud. E quindi servono effettivamente dei piani di emergenza per affrontare la situazione caotica della ex Libia. E grazie ad Alberto Negri per questa analisi. Una notizia di poco fa, più avanti vi faremo sentire la voce: il medico di emergency ricoverato questa mattina allo Spallanzani, infettato da Ebola, presenta condizioni stabili, è vigile e collaborante pur avendo la febbre. Più avanti sentiremo la voce di questo aggiornamento, di questo bollettino medico arrivato dallo Spallanzani. Oggi è la giornata mondiale della violenza contro le donne. Il 6 aprile 2013, lo ricorderete, Lucia Annibali, avvocato di 35 anni, fu ferita in volto dall'acido mentre rientrava dalla palestra. A colpirla due uomini assoldati dall'ex fidanzato, avvocato come lei, ora in carcere dopo la condanna in primo grado per lesioni gravissime e tentato omicidio. Annibali, che è diventata una sorta di simbolo per aver trovato la forza di reagire e di raccontare l'aggressione subita, l'ha sentita Cristina Carpinelli. Perché io penso che alla fine il pericolo concreto arrivi proprio nel momento in cui si decide di dire basta, e il basta è un basta reale, perché tante volte le donne dicono basta, no? Però deve essere nel cervello e maturato anche nel cuore questo basta, ed è proprio lì che probabilmente si diventa più, ancora più crede, no? Di quanto sia stato finora, soprattutto ecco, proprio nel diritto ad avere giustizia, perché soprattutto per le vittime, cioè hanno diritto di avere una giustizia giusta. Io non lo so, continuo più che altro a condividere la mia esperienza, a dire più che altro quello che penso, quello che sento, per far conoscere veramente quello che mi era successo, per spiegare anche come siamo arrivati a quella sera, perché, ma soprattutto tutto quello che c'è stato dopo. Quindi non è solo la violenza, anzi forse la violenza rimane in un angolino in questa storia, perché poi da lì parte tutta una vita fatta di cose belle, di persone belle, buone, che ti aiutano, che sono affettuose, e penso che dare questi messaggi positivi sia sempre più utile piuttosto che parlare di quanto può essere brutto il mondo. Adesso sentiremo che cosa succede sulle strade e poi ci occuperemo di questa ipotesi di sanatoria sulle slot illegali. Parleremo anche di altro, parleremo di calcio con la serata che attende la Roma per la Champions. Ascolteremo un'intervista a Tiziano Ferro che presenta il nuovo disco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È in cura con un farmaco sperimentale e per il momento è vigile e stabile il medico di Emergency che ha contratto l'Ebola e che si trova a Roma allo Spallanzani, notizia di poco fa. È scattata la rivolta a Ferguson dopo la decisione del giudice di non incriminare l'agente che ha ucciso un ragazzo di colore, una dozzina gli edifici in fiamme. Gli ideali dell'Europa soffocati da tecnicismi burocratici, dice il Papa in visita a Strasburgo. Legge di stabilità, il canone RAI in bolletta da gennaio, conferma il sottosegretario Giacomelli a Radio 24. In Libia sventolano bandiere dell'ISIS a Tripoli, un ultimatum dell'esercito alle milizie, andatevene o vi annienteremo. Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata perché lei è una delle persone che naturalmente per il suo ruolo sta lavorando appunto sulla legge di stabilità. Oggi il Secolo XIX pubblica questa notizia che si sta ipotizzando, visto che mancano i soldi per i finanziamenti alla lotta alla ludopatia, di trovare queste risorse con una sanatoria su una serie di sale scommesse illegali che ci sono in Italia. Sono circa 5.000, questa è la cifra più o meno che si calcola, che non hanno ricevuto l'autorizzazione dai monopoli di Stato e con 10.000 euro insomma potrebbero venire a patti con tutto questo. Ci conferma che questa ipotesi è in campo? Ma intanto noi abbiamo già stanziato nella legge di stabilità 50 milioni come contributo alla lotta contro la ludopatia. Inoltre stiamo predisponendo per la delega fiscale, quindi in parallelo alla legge di stabilità, i decreti necessari per attuarla, e lì ci sarà un intervento di riorganizzazione e anche di riduzione della presenza di molti di quegli effetti che ad esempio attraverso le macchinette si hanno, e da questo punto di vista quindi noi ci stiamo muovendo in una linea che è quella di ridurre il peso delle conseguenze negative che il gioco d'azzardo ha, e soprattutto ci poniamo il problema anche di combattere però la malavita, perché c'è una fascia di nero e di grigio che sta attirando notevolmente i rischi di... Questa ipotesi di sanatoria c'è oppure no? No, al momento non c'è, anche perché non abbiamo deciso che la materia viene affrontata al Senato e non alla Camera, quindi non abbiamo ancora preso in considerazione il dossier per il Senato. In queste ore stiamo concludendo la stabilità alla Camera e quindi devo dire anche sinceramente non ci stiamo occupando delle partite di cui ci occuperemo tra 10 giorni per ragioni proprio di gestione del tempo. Però non è escluso, quindi, mi sta dicendo, cioè nel senso non ve ne state occupando, al momento l'ipotesi non c'è, però non è escluso. Se non me ne sto occupando, francamente non riesco sinceramente a dirle cosa è escluso e cosa no. Non l'ho presa in considerazione, la leggo sul giornale, l'approfondirò, ho visto anch'io questo articolo questa mattina. Io sarei molto prudente prima di procedere con sanatorie, ovviamente. Devo anche dirle però che una cosa è stare attenti e prudenti sulle sanatorie, una cosa è essere molto più decisi a combattere il nero e il grigio, e legalizzare talvolta significa anche combattere questa piaga che riguarda il gioco illegale. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Intanto grazie a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Noi cambiamo decisamente argomento e parliamo di calcio. Stasera in campo la Roma. È una mission possible quella che la Roma oggi deve portare a termine in una Mosca gelata, qualificarsi agli ottavi di Champions con un turno di anticipo e poi, già che ci siamo, togliersi quella fastidiosa allergia agli incontri importanti, vedi Juventus, Napoli e Bayern di Monaco. Il 5-1 dell'andata fa ben sperare, ma la Roma, in uno stadio chiuso per le intemperanze dei tifosi del CSKA, non vuole correre rischi. La stentata vittoria sull'Atalanta non alza l'autostima collettiva e l'assenza di Maicon aggiunge qualche timore in più, e Garcia carica la truppa per evitare rilassamenti. Sentiamolo. Abbiamo il nostro destino nei nostri mani, abbiamo un vantaggio e il risultato dell'andata. Questo può essere importante. Le assenze complicano le carte, ma permettono anche di fare molta pretattica. Garcia non si sbottona, 4-4-2, 4-3-3, tutti danno i numeri, ma l'impressione è che, visto anche il freddo, la Roma giochi molto coperta, soprattutto all'inizio, quando, come si è visto a Napoli e a Bergamo, la difesa soffre gli spifferi. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di musica. Senza scappare mai più. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò. La scatola della mia memoria, così Tiziano Ferro definisce la raccolta TZN, The Best Of, in uscita oggi. 2 CD, 8 inediti, 1 CD di rarità e un altro di duetti. Un Best Of mi riporta all'infanzia, racconta Ferro al microfono di Marta Cagnola. Quando sognavo di fare il cantante e acquistavo le raccolte dei cantanti famosi, tra i tanti sogni che avevo dicevo: guarda, se io farò mai il cantante vorrò fare una raccolta. Avere una raccolta significava riuscire finalmente ad avere in linguaggio digitale tutte le canzoni più belle di un artista e non avere la scomodità del vinile o delle cassette, perché ero un grande cultore delle cassette. Poi mi piacevano perché comunque riuscivo a scoprire degli artisti che iniziavo a scoprire dai successi, poi magari tornavo indietro e compravo i dischi precedenti. Invece a quel bambino della foto che c'è sempre nel booklet, cosa dici quando gli parli a te stesso bambino? Ma sai, è una delle cose che mi viene in mente più spesso, cioè se avessi una macchina del tempo dove andrei? Io tornerei agli anni 80 perché vorrei rivivere quel periodo con la coscienza di adesso e poi rincontrarmi, perché in realtà penso che sono ancora mille gli insoluti con quel bambino. Però di fronte all'impossibilità di farlo mi rendo conto che in fondo è andata bene così, e quegli insoluti hanno poi reso... mi hanno reso sicuramente più forte e hanno scatenato a cascata tante cose giuste e tante cose belle, quindi forse lo lascerei fare, non gli direi niente. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo con Stefano Bonaccini, che è il neo presidente della Regione Emilia-Romagna, per capire anche un attimo come valuta questa astensione, per capire se si sente un presidente dimezzato, per così dire. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stabile, vigile, ha febbre ma non è disidratato. Questo è il quadro clinico del medico di emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma per Ebola. È scattata la rivolta a Ferguson dopo la decisione del giudice di non incriminare l'agente che uccise un ragazzo di colore, una dozzina di edifici in fiamme. In Libia sventolano bandiere dell'ISIS a Tripoli, ultimatum dell'esercito alle milizie, andatevene o vi annienteremo. Gli ideali dell'Europa, stanca e invecchiata, soffocati da tecnicismi burocratici, dice il Papa in visita a Strasburgo, e ancora, il Mediterraneo non sia un cimitero. La borsa. Diventa un Cloud Italia provider. Guadagna con il cloud anche tu, da subito. Clouditalia.com. Vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata positiva, FTSE MIB più 1%, FTSE O'Share più 0,96%, positiva anche il resto d'Europa, Francoforte più 0,89%, Parigi mezzo punto percentuale di guadagno, Londra lo 0,15%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Sembra che i mercati credano un po' di più alle ipotesi di quantitative easing da parte della Banca Centrale Europea piuttosto che alla negazione di tutto ciò da parte della Bundesbank. Sì. Si scommette che a breve la Banca Centrale Europea scenda in campo per sostenere l'economia e combattere l'inflazione. Del resto anche il quadro dipinto quest'oggi dall'OCSE è poco allettante. L'organizzazione internazionale ritiene che l'Europa rischi effettivamente la deflazione e la trappola della stagnazione, così gli investitori sono convinti appunto che l'istituto centrale possa a breve fare qualche mossa. Questo per quanto riguarda il quadro generale, e brevissimamente singoli titoli da segnalare, Eleonora? Singoli titoli, oggi vanno molto bene le azioni delle banche, che sono quelle che tirano diciamo un po' la volata del listino milanese, invece per contro continuano a essere deboli i titoli del comparto petrolifero. Eni infatti perde lo 0,29%, ma del resto si sa, le quotazioni del petrolio sono abbastanza basse. Poi ancora riflettori puntati su Telecom, che quest'oggi dopo lo scivolo di ieri guadagna circa mezzo punto percentuale, si sta un po' ripensando appunto alla caduta di ieri, tutto sommato non si sa niente, tantomeno che la compagnia possa fare un aumento di capitale come ieri ipotizzato, si aspettano comunque novità soprattutto sul fronte brasiliano. Grazie ad Eleonora Micheli e ai colleghi di Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo per la seconda parte di Effetto Giorno. Come vi dicevo, siamo in attesa di collegarci con Stefano Bonaccini, neo presidente della Regione Emilia-Romagna. Intanto c'è l'aggiornamento, come si diceva, sulla situazione del medico di emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma, perché ha contratto Ebola. È arrivato poco fa appunto il bollettino medico. Sentiamo dunque Emanuele Nicastri, che è infettivologo dello Spallanzani. Il paziente è un maschio, medico italiano, appena arrivato in Italia dalla Sierra Leone, con trasporto in alto biocontenimento effettuato dall'aeronautica militare. La gestione del trasporto è stata effettuata secondo i protocolli previsti. Il paziente è stato monitorizzato durante tutto il trasporto aereo, durato circa 6 ore, senza alcuna criticità. Alla partenza dalla Sierra Leone il paziente presentava condizioni di stabilità clinica. Al momento della presa in carico da parte dei medici dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, le condizioni permanevano stabili. Dal punto di vista dell'anamnesi patologica remota non vi è nulla di rilevante. Vi è una familiarità per cardiopatia ipertensiva. Riferisce da giovedì 20 novembre la comparsa di un unico episodio di vomito e diarrea senza presenza di sangue, associato ad astenia e a febbricola. Domenica 23 è comparsa febbre sino a 38,5, che è regredita dopo assunzione di antipiretici. Oggi al ricovero, stamattina, era vigile, collaborante, deambulante e autonomo. Ha presentato febbre associata al brivido, malessere generale con iperemia congiuntivale. A livello dell'esame obiettivo, fegato e milza erano nella norma e a livello del torace non vi erano rumori patologici. Non presenta segni di disidratazione cutanea. Ha iniziato un trattamento antivirale specifico con un farmaco che non è registrato in Italia, è stato autorizzato con un'ordinanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco su indicazione del Ministro della Salute. Grazie. Ancora un paio di notizie, la prima arriva da Roma e ci spiace non aver più in linea il sottosegretario dell'economia Baretta per chiedergliene conto e riguarda la legge di stabilità. Il governo sarebbe pronto a chiedere la fiducia, il cui l'approdo della legge di stabilità in aula alla Camera è previsto per giovedì. Il via libera al disegno di legge è previsto entro il fine settimana, dopodiché il testo passerà all'esame del Senato. Come abbiamo visto anche dai racconti di questa giornata, sarà quello del Senato evidentemente un momento decisivo, perché probabilmente là, come ha raccontato questa mattina anche il sottosegretario alle telecomunicazioni Antonello Giacomelli al nostro Alessandro Milan, sarà là che verrà incardinato l'emendamento che porterà il canone in bolletta. E come avete sentito anche dal sottosegretario all'economia Baretta, invece è là che eventualmente, anche se per il momento non ha né smentito né confermato eventuali ipotesi di questo tipo, sarà in quel momento che si dovrebbe eventualmente parlare di questa sanatoria della quale tratta oggi in prima pagina il Secolo XIX. Altre notizie arrivano dal Papa, della sua visita a Strasburgo. Nel suo discorso al Consiglio d'Europa il Papa ha messo l'accento sul problema del lavoro, soprattutto per gli alti livelli di disoccupazione giovanile che si riscontrano in molti paesi, e poi ha parlato di fondamentalismo religioso, fondamentalismo nemico di Dio. Ci ha raggiunto Stefano Bonaccini, neopresidente dell'Emilia Romagna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E anzi bentornato ai nostri microfoni, c'eravamo già sentiti. Bonaccini, si sente dimezzato come presidente vista l'alta astensione? Nemmeno un po', altrimenti Bill de Blasio non dovrebbe fare il sindaco di New York, o Obama non doveva fare il presidente la prima volta. No, guardi, sia presidenti di chi viene a votare, ha votato senza il 40%, farò il presidente di tutti, di chi non mi ha votato, di chi non si è presentato a votare, sapendo che abbiamo un tema inedito che è quello di una bassa partecipazione al voto, e proprio per questo saranno i fatti e non le parole a giudicare se saremo capaci di ricreare un rapporto di fiducia tra le istituzioni, la regione e i cittadini. Tenga conto che da questo punto di vista l'inchiesta non è che abbia aiutato molto a coinvolgere le persone. Sì, si riferisce, lo chiariamo, all'inchiesta sui rimborsi, che ha coinvolto una serie di consiglieri regionali, tra cui anche lei, poi posizione archiviata, prego. Sì. No, quando ci sono 41 consiglieri su 50 coinvolti in un indagine, ai quali peraltro auguro a tutti di trovare il modo di, come credo succederà, insomma, di spiegare le ragioni sull'inerenza delle spese per le leggi vigenti di 3-4 anni fa, è evidente che l'immagine già dalle regioni un pochino compromessa da tanti scandali nel passato ha avuto anche quello il suo peso. Dopodiché, guardi, io credo che l'unica cosa sia dimostrare col lavoro che si può tornare in sintonia con la propria comunità, con la propria regione. Ho avuto un distacco molto largo perché io ho quasi il 50%, poco meno del 30% al mio avversario, e quindi adesso ciò che devo fare è metterci al lavoro il prima possibile per provare a dare fiducia agli emiliano romagnoli, a partire dal CEMA centrale, che è quello del lavoro. Bonaccini, c'è qualcuno nel suo partito che ha remato contro la partecipazione al voto? No, assolutamente no. Ci può essere un pezzo di PD, una parte del PD che l'ha anche esplicitamente detto, che voleva dare un segnale persino al governo nazionale, ma ripeto, io penso che rinunciare a partecipare a votare sia sempre un elemento di debolezza, non di forza. Dopodiché in questo paese, in una democrazia, c'è la libertà di esprimersi come cittadini, rinunciando a esercitare il diritto di voto, che peraltro ricordo ci venne consegnato da persone addirittura parte delle quali persero la vita per ridare libertà e democrazia a questo paese. Però guardi, io credo che adesso noi dobbiamo davvero guardare avanti e girare pagine. Sono stato io il primo a dire che era da parte di alcuni uno schiaffo che c'è stato voluto dare. Il fatto che ha citato la FIOM lei l'altro giorno, no? Addirittura. No, ma ricordavo che è stato il leader regionale che ha detto facciamo un regalo a Renzi, non votiamo Bonaccini. Peraltro, secondo me, confondendo anche i piani e i ruoli di un sindacato rispetto alla politica. Però, come dire, siamo sempre nel campo delle legittime opinioni, ci mancherebbe altro. Io, d'altra parte, la prima cosa che farò è chiamare, appena insedieremo l'Assemblea legislativa tra qualche settimana, chiamerò le parti sociali e i sindaci e insieme proviamo a definire quali possono essere gli elementi virtuosi di un nuovo patto per il lavoro e per la crescita. Però mi creda, io sono molto molto tranquillo, guardo in faccia i problemi, ma non mi faccio distrarre dal fatto che dobbiamo dare risposte ai problemi di questa regione, che peraltro, mi permetta di dire, è una grande regione tra le più competitive a livello italiano ed europeo. Tenga anche conto che la certezza che io avrei vinto a prescindere forse ha dato anche qualche alibi a qualcuno per il fatto di non sentirsi molto in colpa, dovendo stare a casa, insomma. Parlo della parte che guarda il PD, perché a sinistra, come ha visto, a differenza delle parole di tanti, non c'è stata alternativa. Senta, chi non ha scelto il PD non ha scelto Tsipras su altri. Senta, a proposito della crescita della Lega, allora è molto facile, e qualcuno lo fa, etichettare sì, le posizioni di Salvini e in questo caso anche di Alan Fabbri, quello che è stato il suo avversario, come populiste. In realtà probabilmente rispondono anche ad una serie di esigenze, no? Poi magari voi le valuterete mal poste, no? Però Ma guardi, Salvini ha ottenuto due risultati. È venuto per un mese a far campagna elettorale, e addirittura il mio candidato Alan Fabbri, che è anche una bravissima persona, un bravo sindaco di Bondeno, non è stato nemmeno il suo volto messo sui manifesti, quindi sembrava che lo scolto fosse Salvini-Bonaccini. Peraltro Salvini, questo glielo dico perché ogni tanto anche voi dovreste fare alcune riflessioni, è pagato per fare l'europarlamentare. Ho visto che pochi di voi gliel'hanno segnalato. Prende lo stipendio a Bruxelles, ma per un mese temo che a Bruxelles non si sia mai fatto vedere. Dopodiché è legittimo quello che fa, ha deciso di fare campagna elettorale qui, ha spostato la campagna elettorale come fosse un derby nazionale PD-Lega Nord, però mi permetta di segnalare una cosa e anche voi guardate i numeri. 5 anni fa... l'avversario del centro-sinistra si chiamava Anna Maria Bernini e nonostante fosse venuta a votare molta più gente aveva prese quasi il 38% dei voti e noi prendemmo circa il 52%. Io questa volta non ho fatto l'alleanza con la sinistra radicale che ha preso il 3,5%. Se voto sommate i voti miei e quelli in percentuale alla sinistra radicale prendiamo lo stesso risultato. Alan Fabbri non arriva al 30%, cioè il centrodestra in 5 anni, nonostante questa crescita impetuosa della Lega, perde 8 punti percentuali in voti assoluti. Se ne ha persi tanti il PD, lei capirà, ne hanno persi tanti anche loro. Tenga conto che la stessa Lega prende meno voti assoluti di 5 anni fa, nonostante la crescita straordinaria in termini percentuali. Lega ha polarizzato su di sé i voti, però studiatevi i flussi, Forza Italia scompare in questa regione. Forza Italia va sotto il 10%, da 10 consiglieri regionali che aveva scende a 2, e i due consiglieri di Forza Italia sono due ex esponenti di Alleanza Nazionale, cioè la parte liberale e popolare e moderata di Forza Italia scompare. Quindi la crescita della Lega, che è un merito di Salvini, porta però che una parte di elettorato moderato abbandona il centrodestra. Mi pare che questa sia l'analisi più corretta e giusta che dicono i numeri. Grazie a Stefano Bonaccini, neopresidente dell'Emilia Romagna, e in bocca al lupo per il suo lavoro, comunque la pensiate dal punto di vista politico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, dopo un'attesa estenuante, il gran giurì ieri notte ha deciso: Darren Wilson non sarà incriminato. Il poliziotto di Ferguson, in Missouri, che il 9 agosto scorso ha ucciso Michael Brown, un giovane nero disarmato di 19 anni, non sarà perseguito per omicidio perché, come ha detto il procuratore Bob McCulloch, è stato attaccato e provocato ed ha reagito secondo il manuale. E a Ferguson, subito dopo l'annuncio, è esplosa di nuovo la violenza. No justice! No peace! No justice! No peace! No peace! We are outraged! The non-indictment of Jared Wilson means he got away with murder. He murdered Michael Brown. And right now, He's gonna get away with it. No justice, no peace, niente giustizia, niente pace. Avete sentito i dimostranti per strada, una folla di alcune centinaia, alcuni dicono migliaia di persone, la posizione degli attivisti neri un po' dappertutto in America è che Ferguson e Michael Brown sono il simbolo dell'ingiustizia, di due pesi e due misure. Per questo la reazione, la protesta, la violenza, lacrimogeni, bombe fumogene, polizia in assetto di guerra. Ho visto le scene di saccheggio nel Ferguson Liquor Market, il negozio dove Michael Brown aveva rubato un pacchetto di cigarillos poco prima di essere ucciso. Ho visto il Palenque, un ristorante messicano, saccheggiato. L'escalation, devo dire, è stata rapidissima, nonostante la famiglia di Brown avesse chiesto di mantenere la calma, di reagire alla decisione del Grand Jury, per loro dolorosa e ingiusta, con una manifestazione pacifica in onore della memoria di Mike. Ma così non è stato, e secondo le prime ricostruzioni della polizia molti dei dimostranti venivano da fuori, persino da altri stati, una protesta organizzata dunque e non solo spontanea. Peraltro le dimostrazioni sono state circoscritte soprattutto a tre quartieri di Ferguson. I locali, la grande maggioranza afroamericani, peraltro, si aspettavano la violenza e sono rimasti chiusi in casa. Dimostrazione anche in altri stati, a New York per esempio, a Washington, a Los Angeles, a San Francisco. Un primo bilancio a Ferguson, una decina di palazzi bruciati, feriti, decine di arresti. Ma sentiamo Bob McCulloch, il procuratore della contea di St. Louis, uno dei personaggi al centro delle critiche, quando ieri notte ha dato la notizia. The duty of the grand jury is to separate fact from fiction. After a full and impartial and critical examination, McCulloch interviene e dice: il Gran Giuria ha il compito di separare i fatti dalle invenzioni, quindi, dopo un'attenta, imparziale, meticolosa analisi di tutte le prove, ha deciso che non ci sono le basi per una incriminazione di Darren Wilson. Ecco, questa è la posizione, ma Robert McCulloch è stato criticato per non aver neppure chiesto l'incriminazione al Grand Jury prima che l'istruttoria partisse. Ha dato soltanto prove, testimonianze e ricostruzioni, e a questo gruppo formato da 9 bianchi e 3 neri che a porte chiuse ha preso la sua decisione. Un'altra critica al procuratore: perché ha dato l'annuncio così tardi nella notte, consentendo alla protesta di rafforzarsi, di irritarsi? Perché ha usato un tono provocatorio, quasi di sfida? I fatti, come sono stati ricostruiti nella decisione finale del Grand Jury, le prove, le testimonianze, di fatto raccontano minuto per minuto una storia drammatica, dove la provocazione, anche allora, in quel drammatico 9 di agosto, ha prevalso nelle due direzioni. Questa è la ricostruzione. Michael Brown, un ragazzone di 19 anni, si reca con un amico al Ferguson Liquor Market, intimidisce un commesso, ruba una scatola di cigarillos, il furto viene subito denunciato, lo si sente nelle radio della polizia, l'agente Darren Wilson è nella zona per aiutare una donna, vede due giovani che camminano in mezzo alla strada e gli chiede di tornare sul marciapiede. I due lo ignorano, continuano a camminare in tono di sfida in mezzo alla strada. Wilson si mette di traverso con la macchina per fermarli, richiede di nuovo di andare sul marciapiede, si accorge che il giovane indossa indumenti e scarpe che coincidono con la descrizione dell'altro giovane che aveva appena rubato nel negozio. A quel punto Michael Brown si avvicina alla macchina della polizia, attraverso il finestrino aperto aggredisce il poliziotto, lo schiaffeggia, il poliziotto prende la pistola, reagisce sparando. Per chi conosce l'America, beh, insomma, devo dire, si sa che è meglio non provocare mai un poliziotto in America. Si reagisce sempre yes sir e ci si mette sull'attenti, perché si sa quanto possano essere pericolosi. Brown, dopo questo primo scambio, si allontana, il poliziotto scende dalla macchina, il poliziotto ha paura di essere aggredito, spara di nuovo e l'uccide. Ecco, eccesso di forza, non poteva forse sparare alle gambe? Alcuni testimoni dicono che Brown aveva le mani alzate, altri dicono che era minaccioso. Il Grand Jury ha deciso che Wilson ha agito secondo il manuale e che Brown, diciamo così, se l'è cercata. Ma Brown era disarmato, era un ragazzo, il tutto avviene in una comunità dove le tensioni razziali sono fortissime. Insomma, una storia americana, drammatica, senza tempo, con radici profonde, anche se siamo nel 2014 e alla Casa Bianca c'è un presidente afroamericano che ha subito parlato alla nazione in un discorso di 9 minuti. Sentiamo Barack Obama. First and foremost, we are a nation built on the rule of law. And so we need to accept that this decision was the grand jury's to make. There are Americans who agree with. Questa è una nazione fondata sulla legge, dice il presidente. Dobbiamo accettare che questa decisione spetti al grand jury. Alcuni americani non saranno d'accordo, altri saranno profondamente delusi, persino arrabbiati, altri invece condivideranno questa opinione. Ma io mi unisco ai genitori di Michael nel chiedere a tutti coloro che vogliono protestare contro questa decisione di farlo pacificamente. As they do their jobs in the coming days, they need to work with the community, not against the community, to distinguish the handful of people who may use the grand jury's decision as an excuse for violence. Chiedo alle forze dell'ordine, dice ancora il presidente, di lavorare insieme alla comunità, non contro di loro, di saper distinguere fra coloro che potrebbero usare la decisione del grand jury come scusa per compiere delle violenze e coloro, la gran maggioranza, che invece vuole solo far sentire la propria voce. Dobbiamo riconoscere che la situazione di Ferguson rispecchia un problema più grande che la nostra nazione non ha ancora superato, il fatto che in troppe parti del paese esiste una profonda sfiducia tra le forze dell'ordine e le comunità afroamericane. Parte di tutto questo è il risultato della storia di discriminazioni razziali nel nostro paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Woody Guthrie, un classico americano. This land is your land. Questa terra è la tua terra. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Effetto giorno @radio24.it per scriverci, oppure la nostra pagina Facebook. La trasmissione torna domani alle 13. Ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti.